Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di festival letterari. Ce ne sono tantissimi in Italia, più di 1200. In genere si concentrano fra maggio e settembre, durano fra i 4 e i 5 giorni. Dei festival di luglio abbiamo già parlato in un'altra puntata di Italia in controluce. Oggi parliamo dei festival di agosto e settembre. Partiamo da un festival appena nato, il Cortona Mix Festival, la prima edizione da sabato 28 luglio a domenica 5 agosto. È una manifestazione che mette insieme libri, musica, danza e anche un po' di politica, visto che ci sarà la presenza del ministro del lavoro Elsa Fornero. Il Cortona Mix Festival è organizzato dalla Feltrinelli e dal comune di Cortona, un delizioso paesino in provincia di Arezzo. Ce ne parla l'editore Carlo Feltrinelli. C'è una parte di musica dove viene il mio amico Emil Kusturica, autore Feltrinelli, con la sua No Smoking Orchestra. Ci sarà Eri De Luca, ci saranno autori stranieri come Jonathan Coe, ci sarà una parte di documentari, di film che verranno presentati dalla nostra collana Via Cinema, e mi sembra, diciamo, nell'insieme una formula appunto abbastanza nuova, perché non è, diciamo, incentrato su un tema specifico, ma su una quantità di cose che accadono, ci accadono intorno e che di cui probabilmente anche sentiremo parlare. Infatti ci saranno presentazioni di autori in qualche modo che verranno lanciati nel prossimo futuro, che hanno da parlare delle loro nuove opere che stanno per pubblicare. Quindi sarà una settimana tutto tondo tra musica, danza, dibattiti, letteratura, cinema, documentari e anche, diciamo, contando sulla tradizionale accoglienza anche gastronomica di Cortona, che è, diciamo, da sempre molto molto apprezzata. E fra i musicisti che si esibiranno al Cortona Mix Festival vi segnaliamo anche Stefano Bollani, poi c'è la danzatrice Leonora Bagnato e gli scrittori Stefano Benni e Marcella Serrano. È stato istituito anche un Mix Prize, il premio al miglior libro uscito in Italia nella stagione 2011-2012. A votare saranno i librai Feltrinelli e i lettori che visiteranno a Cortona la libreria temporanea. Tutte le informazioni su mixfestival.it. Andando in ordine cronologico, saltiamo subito al 5 settembre, quando verrà inaugurata la 16ª edizione del Festival Letteratura di Mantova, il padre di tutti i festival letterari italiani. Nonostante il grande successo che riscuote, ha mantenuto ancora un'organizzazione familiare. Il comitato organizzatore lavora tutto l'anno per scegliere gli ospiti, italiani e stranieri, nomi di punta e scrittori sconosciuti che meritano un palcoscenico per farsi conoscere. Il Festival di Mantova è frequentato da un pubblico di affezionati, lettori che sono disposti a pagare un piccolo biglietto e magari a fare anche una coda per partecipare ai dibattiti. Ma qual è il segreto di questa manifestazione? Lo abbiamo chiesto ad una delle organizzatrici, Marzia Corraini. Se è un segreto, bisogna che rimanga un segreto. No, scherzo, ma in realtà probabilmente è anche dovuto al fatto che siamo stati i primi soprattutto a individuare una necessità che c'era nelle persone, che era quella di stare insieme a parlare di cultura direttamente con gli autori stessi, senza formalità. E noi abbiamo mantenuto molta fede a questa nostra idea iniziale, e ancora adesso è così. E quindi l'entusiasmo dei volontari che ci seguono e del pubblico, che è molto fidelizzato, fa da tantam, e per questo probabilmente continua ad essere il festival, diciamo, più riconosciuto. E usare una parola, un festival vero. La cosa che mi stupisce sempre a Mantova è che il pubblico paga un biglietto per partecipare a molti degli incontri ed è disposto anche a mettersi in coda, in fila, quindi c'è proprio un desiderio di andare ad ascoltare anche magari incontri ritenuti un po' alti. Certamente sì, c'è molta motivazione ed è una cosa che noi abbiamo richiesto fin dall'inizio, con appunto quello che lei chiama il pagamento, diciamo, di un biglietto, che comunque è molto modesto, devo dire, però certamente sì, e poi le code ci sono e si fanno, devo dire anche in gran parte molto molto molto educatamente. Sono anche un punto di incontro tra le persone che si scambiano spesso opinioni opinioni sui libri o sugli autori da andare a vedere. Il fattore del, quando dicevo vero, è proprio questo, è un fattore di motivazione vera. Qui non c'è un aspetto legato alle star del mondo della letteratura, ma è proprio la gente che ha voglia di capire, di incontrare, come diceva lei, anche va ad incontri piuttosto complessi, oppure a volte anche va a sentire persone che non sono state mai tradotte in Italia, anzi questo succede molto spesso, ma anche a volte, dicevo, va a sentire persone che non la pensano come loro, cioè è proprio un luogo dove si cerca di capire anche il contrario da sé. Fra gli ospiti di quest'anno del Festival Letteratura di Mantova, dalla 5 al 9 settembre, il premio Nobel Toni Morrison, l'argentina Claudia Pignero e gli svedesi Lars Kepler. Poi ci sono gli italiani Marcello Fois e Michela Murgia, fra i giallisti che dovranno parlare dello scrittore che li ha influenzati di più, Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli e Marco Malvaldi. Ma per avere tutto il programma e prenotare gli appuntamenti, www.festivalletteratura.it. Due fine settimana dopo, dal 19 al 23 settembre, ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia con Pordenone Legge, giunto alla 13ª edizione. Tanti gli incontri gratuiti degli scrittori con il pubblico in vari luoghi della città. Nome di punta di quest'anno l'inglese Ian McEwan, famoso per aver scritto Espiazione, diventato anche un film. E poi Niccolò Ammaniti, Walter Siti, Gianrico Carofiglio, Giorgio Faletti, Mauro Corona e poi il vincitore del premio Campiello, che sarà assegnato a Venezia il 1 settembre. Fra gli stranieri citiamo Peter Cameron, Jonathan Coe e Aaron Appelfeld. La parola a Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge. Noi speriamo sempre che, da un lato, sì, è necessario ed è bello avere la vetrina, diciamo, delle novità editoriali, però dall'altra parte cerchiamo sempre di stimolare l'interesse e di accogliere anche gli spunti di interesse dei lettori, da un lato cercando degli autori anche, diciamo, un po' particolari, un po' importanti sul piano della poesia, del pensiero, di altre vie, insomma, non solitissime o non molto solite dal punto di vista di ciò che si trova, diciamo, nelle vetrine proprio delle librerie. E poi cerchiamo sempre di inventarci qualcosa per rendere più stimolante la presenza degli autori. Un esempio, la mappa dei sentimenti, 8 autori di volta in volta, quest'anno tocca ai giallisti, in passato ci sono stati gli psicologi, gli storici e tanti altri, ci sono degli autori che vengono, 8, a illustrare a modo loro, come desiderano, hanno un'ora di tempo, 8 sentimenti fondamentali, invidia, gelosia, amore, amicizia, eccetera, eccetera. Poi abbiamo delle forme di slam, come si chiamano oggi, cioè il fire writing, fire reading, dove appunto dei giovani e valenti scrittori si combattono o scrivendo appunto delle cose che poi vengono lette al momento o addirittura leggendo e quindi confrontandosi sulla lettura, ma abbiamo anche tante altre cose stimolanti che riguardano proprio la partecipazione del pubblico. Insomma, adesso illustrare tutto sarebbe difficile, ma cerchiamo in vari modi di creare un contatto che identifichi questo luogo per quei giorni con gli appassionati del libro e che semplicemente non sia appunto un contatto immediato, ma che permetta di vivere una piccola esperienza particolare, magari anche di avere anche una continuità di rapporti poi attraverso il sito internet e altre cose. E a Pordenone Legge, trovate tutto su www.pordenonelegge.it, ci sono anche incontri fra giovani esordienti ed editor per arrivare magari alla pubblicazione di un libro. Questo meccanismo è il punto forte di un altro festival letterario, il Women's Fiction Festival a Matera dal 27 al 30 settembre. Se avete un romanzo nel cassetto potete partecipare alla Borsa del Libro. Al festival gli aspiranti scrittori, soprattutto donne, ma sono ammessi anche gli uomini, incontrano editor ed agenti letterari, come spiega una delle organizzatrici, Maria Paola Romeo. Da sempre ci siamo ispirati alle Writers Conference, appunto alle conferenze per scrittori organizzate nei paesi anglosassoni. Una appunto dei soci del festival è Elizabeth Jennings, che ha portato la sua esperienza americana anche qui da noi in Italia. Cosa offriamo? Offriamo un congresso appunto che si sviluppa su 4 giorni, in cui gli iscritti, donne e anche qualche uomo, nonostante il nome appunto del festival sia dedicato alla la Women's Fiction a sia italiani che stranieri a incontrare, appunto, come dicevi, editori e agenti. Ci sono sia tavole rotonde che descrivono la situazione del mercato editoriale, ma soprattutto, e questa è la cosa un po' più particolare, la possibilità di avere incontri a tu per tu appunto con gli editor. In questo momento gli editor stanno pubblicando sul nostro sito esattamente in quali ambiti si muovono, che tipo di libri stanno cercando, così che noi già adesso preventivamente a chi si iscrive possiamo cominciare a suggerire con quale di questi personaggi può appunto fissare un appuntamento. Come ci si iscrive al Women's Fiction Festival e quanto costa? Allora, noi abbiamo un sito che è appunto womensfictionfestival.com e costa 220 euro l'iscrizione appunto per 4 giorni, tavole rotonde, incontri a tu per tu, seminari, approfondimenti anche magari tenuti da scrittrici che hanno già esperienza, che sono pubblicate, che appunto trasmettono la loro, il loro know-how a chi magari è esordiente. Dal Women's Fiction Festival sono venute fuori autrici come Giuseppina Torregrossa, che ora pubblica con Mondadori, o Gabriella Genisi, giallista di Sonsogno. Oltre a seminari e incontri con editor e agenti letterari, c'è una parte pubblica per cui non è necessario iscriversi, ossia le presentazioni classiche dei libri. Quest'anno il tema è il gusto. Ed è tutto per questa puntata di Italia in Controluce dedicata ai festival letterari di agosto e settembre. Vi ricordo la prossima edizione domani alle 13:30. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.